alta voce. Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine. 21esima puntata. Verso le 11, un giorno della fine di giugno, Luca, nella sua cameretta, lavorava per riordinare le sue carte. Era di domenica, ma i suoi, meno Beata, erano tutti assenti. Sua madre era andata verso Befagna. Suo padre, Michele e Matteo, erano partiti per la piana in cerca di lavoro. Le due sorelle più piccole erano uscite col branchetto delle capre e delle pecore dirette a Macchialoreto. Giù, in cucina, Beata accudiva alle sue faccende con distratta lentezza. La ragazza si affacciava all'uscio che dava sulla strada, richiamata da ogni rumore di passi o di voce. Si fermava all'ingresso con una pentola o un mestolo in mano, ascoltava, interveniva nei colloqui o nei diverbi delle donne del vicinato o dei passanti con la sua aria solita, di saggezza sprezzante. Da qualche tempo Beata aveva cambiato contegno nei riguardi di Luca. Da quando lo sapeva in rapporti con personaggi importanti di Calena, la sua stima per le virtù del fratello si era accresciuta. Le pareva, in base a chissà mai quale misteriosa tavola di paragone, che anche i modi del fratello fossero improntati a maggiore finezza. Luca godeva i vantaggi di questo cambiamento di giudizio. La sorella, di tanto in tanto, gli preparava un caffè o gli portava un pacchetto di sigarette acquistato con le sue economie. La sentiva ciabattare su per la stretta scala di legno, picchiare con cortese discrezione all'uscio e gridare «È permesso?». Tutte le vocali erano esatte e le consonanti martellate. Entrava sorridendo e offriva il suo dono con mosse larghe, cerimoniose, disinvolte e graziose nella intenzione, ma che erano soltanto goffe e cordiali. Quella domenica di giugno, gloriosa di sole, di cielo alto, sonora di garriti di rondini, nel silenzio della strada solitaria, Beata all'improvviso udì la corsa precipitosa di un gruppo di ragazzi. Si fece all'uscio. Carluccio Gianni Ruberto le cadde tra le gambe, le abbrancò le gonne nell'impossibilità di raffrenare il suo impeto e disse con voce rotta dall'affanno: «Vengono!». «Chi vengono?», chiese Beata. Ma Carluccio Gianni Ruberto non fu in grado di rispondere. Il resto della notizia Beata l'apprese monca, rotta, a brani dai ragazzi che seguivano Carluccio e che a uno si arrestavano davanti alla sua porta come puledri improvvisamente trattenuti da uno strattone furioso di invisibili redini. Beata comprese confusamente che Laura Cannavale, con un gruppo di signori di città, era avviata verso casa sua. Rimase perplessa un attimo, fece l'atto di rientrare, ma vide Laura vestita da cavallerizza, seguita da due signori in grigio che le stavano al lato e si avvicinavano discorrendo e ridendo fra loro. Laura chiese: «Abita qui il signor Marano?». I ragazzi risposero in coro: «Sì, sì!» e indicavano la porta, la parte superiore della casa dove Luca aveva la sua stanza. Aggiungevano: «C'è, io l'ho visto dal tabaccaio!». «No!» fece un altro, «voleva tagliarsi i capelli e ha trovato chiuso. Nazario è andato a Pietrafolca». Un altro affermò perentorio: «Non si è tagliato i capelli». Erano tutti intorno a Laura e ai due uomini, ansiosi, petulanti, quasi sfiorandola con i loro corpiccioli sudici, coperti da camicine rattoppate a vari colori o a brandelli, frementi sui piedi scalzi coperti di polvere. «Vorrei parlare col signor Marano», disse Laura ridendo. «È la sorella quella, è Beata», dissero in coro. Uno aggiunse: «Andiamo a chiamarlo». Il gruppo di ragazzi, senza che Beata avesse avuto l'idea di trattenerli, si precipitò in cucina e si arrampicò a balzi su per la scala che portava alla stanza di Luca. Beata si inchinava, balbettava. La sua casa si mise a odorare improvvisamente di stallatico, di aglio fritto, di fieno. La cucina doveva avere delle finestre, delle pareti nitide, delle poltrone. Bisognava che Beata avesse un altro vestito e le mani libere dalla pentola che cercava invano di nascondere con la destra. La sinistra faceva un gesto vago, inquieto. Passeggiava dalla testa alle gonne, al petto, al viso. Faceva il giro delle povere vesti, del fazzoletto che legava i capelli in disordine, del naso, forse tinto dal grasso bruno di una padella. Un tumulto di parole le andava e veniva dall'ugola alla lingua. Apparve Luca e Beata udì, come in sogno, la voce di Laura che diceva a suo fratello, indicando i due signori, il maestro Romano, il barone di Santa Silia. Luca era stato sorpreso dall'annunzio tumultuoso dei ragazzi in maniche di una delle sue prodigiose camicie. Si era messo la giacca del suo unico vestito scuro. Si era abbottonato con le dita leggermente tremanti un colletto candido, inamidato, che per fortuna aveva trovato in un cassetto, e annodato una cravatta a fiori che poteva dirsi cravatta solo se il suo valido mozzicone rimaneva sepolto nell'abbottonatura della giacca a due petti. Luca strinse la mano a Romano e a Santa Silia e disse a Laura: «Io sarei venuto domani a Calena per portarle le carte. Don Primiano la Zazzera mi aveva detto che lei sarebbe tornata domani nel pomeriggio». «Siamo venuti in auto, signor Marano. Il barone di Santa Silia voleva vedere il progresso dei lavori. Romano non aveva niente di meglio da fare e ha accettato l'invito per la gita. Al Frassino ci sono anche il duca di Pietracatella, che si è rifiutato di montare a cavallo, e la baronessa Santa Silia che gli fa compagnia. E così ora lei sa tutto». «Il vecchio è furbo», disse ridendo Romano, «e deve intendersi di cavalli. Io ho la schiena rotta. E che strade, signor Marano? Da queste parti non ci sono che campagne storte. Se penso che dovrò rimontare a cavallo, mi viene la febbre». Laura invitò Luca ad andare con loro a colazione alla masseria del Frassino. Luca si schermiva, tentando di accampare pretesti, ma Beata, che aveva ritrovata la sua calma, disse: «Verrà, donna Laura. Intanto, se volete accomodarvi, è una casa di contadini, ma con tutto il cuore. Potete riposarvi. Luca verrà. Tanto onore per Luca e tanto onore anche per me». Laura ringraziò con un gesto Beata, scusandosi di non poter accettare il suo invito perché erano attesi per l'una al Frassino. A Luca disse di essere rammaricata di non avere un cavallo anche per lui. L'idea dell'invito era venuta a Santa Silia lungo la strada. Carluccio Ianni Ruberto, che si era stabilito saldamente tra il gruppo dei forestieri, con le mani in tasca, il viso vivacissimo puntato su Laura, orecchie tese per cogliere ogni parola del discorso, disse precipitosamente: «C'è il cavallo di Francesco Spataro davanti alla casa. Te lo dai il cavallo se lo vuoi. Ehi, Luca!» Gli altri fecero in coro: «È un cavallo marrone, corre come il vento. Corre di più la giumenta di Don Carmine. Ci sarà la giumenta di Don Carmine?» E discorrevano tra loro, petulanti, garruli, come uno stuolo di passeri. Carluccio disse: «Andiamo a prendere il cavallo». E si allontanarono correndo alla disperata. Luca aveva finito con l'accettare e si era avviato con gli altri per raggiungere la strada di circonvallazione, dove un contadino del Frassino attendeva coi cavalli. «Morutri si può raggiungere in automobile», disse Luca a Santa Silia. «Questa strada arriva alla stazione ferroviaria di Pesco». «Lo so, caro Marano», fece Santa Silia, «ma noi dovevamo vedere i lavori delle terre. Laura ci ha molto parlato di lei», aggiunse, «e io mi auguro che possa continuare a collaborare con la signora Cannavale». Luca rispondeva con dei piccoli inchini e dei sorrisi impacciati. A un tratto udirono alle loro spalle un galoppo furioso. videro venire avanti in un nuvolo di polvere il cavallo di Francesco Spataro, che aveva sul dorso un grappolo di ragazzi. Carluccio stava avanti con le redini serrate in pugno quasi sul collo dell'animale e lo veniva incitando con le grida e le percosse. Arrivato nei pressi del gruppo, cercò di frenare l'impeto della bestia, ma questa, spaurita dalle grida, cedette al morso tirato con forza dagli altri tre che, avvinghiati, si rovesciarono contemporaneamente a catena. Carluccio, Guido Antonacci e Cicchillo Maurizio schizzarono dalla groppa come cavallette, abbrancarono in tre le redini dell'animale e lo portarono a Luca. «Eccolo, il cavallo di Francesco Spataro», disse Carluccio con voce mozza per l'affanno. «Stasera, glielo riporti stasera», fece Guido. «Anche domani, alle terre, se non puoi stasera», precisò Cicchillo. «Ma che bravi», fece Laura ridendo. «Sono dei cavalieri perfetti». Si mise una mano nella tasca della giacchetta, estrasse un borsellino e fece l'atto di offrire una moneta a Carluccio. Il ragazzo arretrò di due o tre passi, volse le spalle alla comitiva, seguito dai compagni, e si mise a correre, come se li inseguissero. Dopo una permanenza di 15 giorni a Napoli, la sera precedente alla partenza, Laura aveva detto al duca di Pietracatella, che era andato a salutarla: «Domani i Santa Silvia e Romano verranno con me in automobile a Calena. Perché non venite anche voi?» «Io a Calena?» aveva detto il duca sorpreso. «E che ci verrei a fare?» «Una gita. Noi, per meglio dire, io e Santa Silvia andiamo a dare un'occhiata ai lavori delle terre, ma voi potreste anche fermarvi alle masserie del Frassino. Faremmo colazione in campagna e poi nel pomeriggio voi a Napoli di nuovo e io rimonto a Calena». «Savez dire?» fece il duca. «Si j'ai bien compris, 8 heures de voiture dans la journée? È lusinghiero il tuo invito, mia cara. Hai ancora un'eccellente opinione delle mie vecchie ossa. Ma è un'opinione che le ossa non condividono». Ma il duca sorrideva. Era evidente che la proposta lo allettava. Finì con l'accettare, ma alla condizione di non essere costretto a visitare il feudo. «Io ho venduto le mie terre», disse a Laura, «senza sapere esattamente dove si trovavano. Per me, per molti anni, le mie terre furono pezzi di carta con la cifra dei miei debiti. Era una maniera comoda di conoscerle. 100 ettari di terra erano riassunti su un foglietto. Un foglietto che era un simbolo e basta. Ma suppongo che anche tu ti stia avviando a una conoscenza simbolica delle tue terre. In questo ti aiuterà Santa Silvia». Si arrestò un momento e poi aggiunse con una sfumatura di rammarico: «Vedo che state diventando dei buoni amici. Attenzione, cara. È un uomo duro, Santa Silvia». Laura lo ascoltava con grande interesse, sorridendo vagamente oppure chiudendosi in brevi riflessioni. Come sempre, non cercava di ottenere dal suo vecchio amico un discorso filato, un ragionamento concreto. Il duca non poteva parlare che in quel modo, tra aforistico e ironico. Ma Laura sapeva intravedere al di sotto delle sue parole argute, amare, lo stato d'animo che le dettava. Una tenace tenerezza, tra paterna e sensuale. Quando talvolta, per ringraziarlo d'una cortesia o per salutarlo in occasione di partenze e di arrivi, gli gettava le braccia al collo e lo baciava sulle guance, lo vedeva come irrigidirsi e i suoi occhi si facevano pesanti d'improvvisa tristezza. Un giorno che erano insieme in una riunione allegra da Peppone a Mare, al capo di Posillipo, a un tratto Laura aveva percorso la verandina della trattoria e gli si era appesa al collo tempestandolo di baci. Il duca le aveva detto con dolorosa serietà, adoperando il suo solito francese nasale: «Faut pas m'appeler grand-père comme ça». Il duca era il solo amico al quale Laura riuscisse a fare delle confidenze sulla sua vita di Calena. Egli era riuscito a comprendere fin dall'inizio la particolare natura dell'errore commesso da Laura. Quando un giorno lei gli aveva detto che sospettava che Enrico avesse ripreso i suoi rapporti intimi con Clelia, il duca aveva risposto: «Ça ne m'étonne pas. À son âge, chérie, on a toujours femme et on épouse une maîtresse». E veramente Enrico, pensava Laura, aveva in Clelia una moglie e aveva sposato un amante. Sapeva lucidamente ora che suo marito si era piegato a quelle nozze perché non avrebbe saputo ottenere in altro modo, a son âge, la possibilità di convivere con lei. Durante la sua assenza, dopo l'aggressione in piazza della Fraterna, Enrico, come se avesse trovato in compagnia delle altre donne della casa un'atmosfera più consona al suo stato d'animo, una comprensione di quella sua dolorosa inerzia, tendeva a sottrarsi agli incontri con la moglie. Linda le raccontava che, quando lei era assente, il signor avvocato era quasi sempre ubriaco, che sul tardi il suo amico professor Barberi andava a trovarlo, si chiudevano in biblioteca, si facevano portare del vino, dei liquori e vi rimanevano fino a tarda notte. Passando accanto alla porta si sentiva a volte il loro altercare violento che finiva quasi sempre in lacrime e in abbracci. Quando arrivava lei da Napoli, il contegno della famiglia cambiava. Enrico riceveva ugualmente Barberi, ma la loro conversazione era fatta con aria di evidente sospetto. Barberi, vedendola, faceva sempre l'atto di andarsene e rimaneva soltanto se lei insisteva. Minuti penosi per i due. Laura si accorgeva che Enrico e Barberi rispondevano alle sue domande per dovere di cortesia, come se fossero stati disturbati da un estraneo nel loro colloquio segreto. Clelia e Giorgina erano diventate cordiali e inseparabili amiche. Pareva che Clelia avesse trovato modo di inserirsi necessariamente nella nuova famiglia. I contadini delle masserie del Frassino e delle altre terre sparse tra Befagna e il Calandro, che conosceva da anni, continuavano ad avere rapporti con lei per il pagamento di fitti e per i loro minuti affari. Linda aveva riferito che anche Felice Protto era stato una sera a trovare Clelia e più volte l'avvocato Colonna aveva avuto con Giorgina e con lei dei lunghi colloqui. «È una congiura», pensava Laura mentre cavalcava accanto a Santa Silvia. «Povero duca», le disse a un tratto costui. «Chissà se sarà riuscito veramente a dormire. Stamattina faceva pena, dopo quella levataccia». «Anche sua moglie», fece Laura, «doveva essere molto stanca. Mi ha detto che non è riuscita a dormire più di 2 ore stanotte». «Ma mia moglie dorme quando vuole. E si è detto che si sarebbe buttata su di un paglione e avrebbe dormito fino all'ora di colazione. Bisogna crederci». Luca, che seguiva cavalcando accanto a Romano, taceva. Cercava di immaginare che cosa mai potessero dirsi l'uomo e la donna che ogni tanto si voltavano sorridendo e facevano uno scherzoso cenno di saluto al loro amico. Romano rispondeva con un gesto di comica minaccia. Era stanco, aveva gli occhi pesanti di sonno ed era costretto a reggersi all'arcione con le mani per tentare di mantenersi in equilibrio. «Senta, Marano, lei che si intende di cavalli? Le pare normale l'andamento di questa bestia?» «Camminano tutte così», fece Luca seriamente. «Dipende dal terreno, che è pieno di sassi». «Lei», aggiunse con un sorriso gentile, «non dovrebbe mantenersi così rigido sulla sella. Dovrebbe assecondare il movimento del cavallo». «Ma se mi agito faccio un capitombolo, mio caro. Io non sono mai stato a cavallo. Mi sento rotto, come se mi avessero bastonato. Mi sto domandando perché ho accettato di arrivare in questi luoghi. Come si chiama il suo paese?» «Morutri». «E lei ci sta tutto l'anno?» disse Romano. «Quasi. In autunno, se ho soldi, vado a Napoli per fare gli esami all'università. E poi? Ritorna qui? Lei ha un coraggio, fece Romano chinandosi spaurito sul collo dell'animale che aveva fatto un passo falso. Rimessosi in equilibrio, guardò per un attimo Luca come se esitasse a fargli la domanda. «Scusi, sa, ma non è caldo con quella giacca, con quel colletto?» Luca arrossì e rispose «Caldo? Io non sento caldo». «Ah no?» fece Romano tergendosi il sudore. «Fa caldo come d'agosto e non c'è un filo d'ombra». «Sarà questione d'abitudine». Poi aggiunse «Ma ce lo pianterete qualche albero in queste maledette terre?» In quel momento Laura si volse e fece un cenno a Luca perché si avvicinasse. Luca spinse il cavallo al trotto e le si mise accanto. «Da quale parte sono esattamente le terre usurpate dalla parrocchia?» gli chiese. «Sono dall'altra parte», rispose Luca, «verso Befagna. Sono terre buone quelle. Ci sono pochi sassi». «Anche la zona di Ceccanibbio, mi ha detto Tallei, è tutta di terra ottima», fece Santa Silvia. «Giusto», disse Luca. «Questa parte che va verso le masserie del Frassino è la peggiore. È un po' secca, ma sgombrata dai sassi, verrebbe bene a vigna». «Credo che anche Tallei sia dello stesso parere. Ha fatto un buon lavoro, Tallei», aggiunse Santa Silvia rivolgendosi a Laura. «Scusi», fece Luca quando fu di nuovo accanto a Romano, «quel signore, il barone, lei sa esattamente che c'entra con la faccenda delle terre? Non sa che il barone di Santa Silvia ha dato il danaro a Laura per iniziare la coltivazione?» «Ah, è lui che gliel'ha dato», fece Luca perplesso. «Già, proprio lui. Ne ha molti, dei suoi, della moglie. Se vuole lavorare bene qui, si tenga da conto quel signore». «Io?» fece Luca. «Mi sono interessato dei contadini del mio paese, ma spero di fare un altro mestiere poi». «Glielo consiglio anch'io», fece Romano. «È impossibile vivere in questa landa». Raggiunsero le masserie del Frassino, che era l'una passata. Il duca di Pietracatella, seduto ai piedi di un gruppo di frassini, leggeva un giornale e fumava. Quando la comitiva fu scesa da cavallo, si spalancò una finestra del primo piano della masseria e una donna bionda, discinta, apparve nel sole. Inquadrata nella finestra a rozza, aperta tra le pietre nerastre del muro, quel confuso fulgore di carni, di capelli fulvi, l'improvviso balenare dei denti e la voce calda, gioiosa nel grido apparvero a Luca come la rivelazione di un prodigio. «È la baronessa Santa Silvia?» disse Laura sorridendo a Luca, che era rimasto con il naso in aria. Il giovane tentò di dire qualche cosa, ma Laura si era già allontanata per accostarsi a Linda che usciva dalla porta della masseria accompagnata da Masino. Il ragazzo, vedendo la zia, spiccò la sua solita corsettina e le si arrampicò addosso. «È voluto venire. Non c'è stato verso di lasciarlo a casa», disse Linda. «Hai fatto bene a portarlo». E poi, rivolta a Luca, aggiunse «Lei lo conosce?» Luca si avvicinò e tentò di fare una carezza al bambino, che gli afferrò la mano con mal garbo e l'allontanò dal suo viso. «È un po' forastico», fece Laura ridendo. La cameriera era rimasta ferma a guardare la scena e aveva un piccolo sorriso enigmatico sulle labbra. Luca fece «Si sa, i bambini...» Linda lo squadrò da capo a piedi con aria sussiegosa e ironica. Il piccolo Masino rimase accanto alla zia che parlava sottovoce con Linda per darle disposizioni per la colazione. Le due donne scomparvero nell'interno e Luca le vide, attraverso la porta aperta, che facevano un giro intorno alla grande tavola apparecchiata carica di bicchieri scintillanti e di fiori. «Si potrebbe mangiare all'aperto», disse Romano rivolto a Luca. «Con questo caldo? Sta venendo il sole qui, guardi», fece Luca e indicò il cielo al maestro Romano. «Già», fece Romano, «sta venendo il sole. Voi altri nati in campagna, anche se guardate per terra, il cielo lo avete sempre in tasca. I contadini hanno bisogno del cielo», disse Luca seriamente. In questo momento si avvicinarono il barone di Santa Silia e il duca di Pietracatella. «Il signor Marano», disse Santa Silia presentando Luca. Il vecchio gli strinse la mano e gli disse: «Vous êtes un gaillard jeune homme, bien bâti vraiment. Bisogna farlo vedere ad Anna, che sostiene che gli italiani sono tutti piccoli di statura. Chiamala, Santa Silia». Ma non ci fu bisogno di chiamarla. Anna Santa Silia era apparsa sulla porta della masseria vestita di un leggerissimo abito bianco. Si soffermò un attimo nella lama di sole che pioveva tra il fogliame. Luca vide, con i suoi acutissimi occhi, disegnarsi sotto il vestito le forme forse troppo piene della donna. «Anna, il signor Marano, uno dei tanti giganti della zona», disse Santa Silia alla moglie. La donna alzò il viso su Luca e lo guardò negli occhi. «L'avevo già visto dalla finestra», disse, «e sapevo della sua esistenza. Me ne aveva parlato Laura». Si allontanò un attimo e disse qualche cosa in inglese alla sua amica. Laura rispose ridendo nella stessa lingua e le due donne si accostarono al duca tenendosi a braccetto. Luca non aveva capito niente e non aveva risposto niente. Qualche minuto dopo disse alcune frasi confuse, balbettanti, al duca di Pietracatella, che gli confidava di non aver potuto dormire durante la mattinata, ma di volersi rifare nel pomeriggio. Ma quando il duca aggiunse qualcosa in francese intorno alle mosche, Luca, che aveva afferrato solo approssimativamente il significato, si accontentò di ridere. Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.